il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Domenica 17 gennaio si tiene la 21esima edizione della Prima del Torcolato. Che cos'è il Torcolato? È un vino particolare prodotto a Breganze, ma non è solo un vino, è anche una tradizione ed è qualcosa che è un prodotto tipico che identifica e traina anche un po' il territorio. Esiste una strada del Torcolato dei Vini di DOC di Breganze, esiste il consorzio del vino DOC di Breganze. Per saperne un po' di più di questo vino, la sua storia, la tradizione che, e anche come viene vissuto dai cittadini di Breganze e del territorio, abbiamo con noi oggi Fausto Maculan, presidente appunto della strada del Torcolato e dei Vini DOC di Breganze. Benvenuto, dottor Maculan. Buongiorno a tutti, grazie per ascoltarci. Ecco, quello che volevamo sapere intanto è che cos'è il Torcolato. Il Torcolato è un vino dolce che appartiene proprio alla tradizione di Breganze. Si chiama così perché i grappoli di uva vespaiola venivano attorcigliati attorno ad uno spago, intorcolati, ecco l'etimologia della parola, e poi appesi alle travi fino a gennaio, perché è un vino che si produce con l'uva passita. Ecco, noi sentiamo spesso parlare di passiti, di vinsanto, sì, eccetera. Anche nel Veneto abbiamo, sì, anche altri vini. Certamente. Prima di tutto appunto nel veronese, dalla Valpolicella, sì, insomma. Qual è la differenza rispetto, intanto come si producono e qual è la differenza del Torcolato rispetto agli altri? Beh, Ricciotto, per esempio, ecco. Le devo dire che il fatto che nelle Venezie, uso il plurale proprio perché mi riferisco al territorio della Repubblica, della Serenissima Repubblica, la produzione di vini dolci è veramente diffusissima. Questo probabilmente deriva dal fatto che i veneziani possedevano i territori nel mare Egeo e lungo l'Adriatico, dove si producevano vini dolci, e per tradizione poi, una volta perso diciamo l'impero, li hanno riprodotti in patria. Infatti in tutte le zone dei vini DOC, da Valdobbiadene alla Valpolicella, dal Padovano a non lo so dove, ma in ogni posto si produce o un vin santo o un vino prodotto con l'uva passita, perché mentre nei territori oltremare diciamo si producevano naturalmente al sole, da noi purtroppo il sole a settembre, ottobre, novembre non c'è così forte e siamo costretti a mettere l'uva all'interno dei fruttai e farla passire. In maniera particolare a Breganze lo si faceva nei granai, e nel granaio c'era già mais, c'erano già patate, c'erano le noci che gravavano sul pavimento, e allora sono inventati diciamo questa tradizione di attorcigliare l'uva e appendere alle travi in maniera di alleggerire il peso, e il risultato è straordinario. Ecco, il risultato è che abbiamo un'uva con meno acqua all'interno degli acini, quindi abbiamo più zucchero, più sostanze, e quindi per questo si ha questo, sì, vino molto dolce, sì, e anche liquido, ma quasi che si può che si tocca, insomma. Sì, sì. La ragione è che il mosto, diciamo, che si torchia a gennaio ha più del 30-35% di zuccheri, e questi non riescono a fermentare tutti. Ne fermentano una parte, ma una parte rimane presente e il vino è dolce. Ecco, da quant'è che c'è questa tradizione? Lei si è rifatto ancora ai veneziani, sì, e da quando si parla di vino torcolato a Breganze, e che significato ha un po' per il territorio? Sì, c'è un bellissimo libro che si chiama Il Roccolo, ed è un libro in poesia, dove si citano tutti i vini prodotti nel Vicentino nel 1754, e lì si trova che si fa il vino mantenendo l'uva appiccata all'aria, ottenendo così un vino dolce. Pertanto è veramente una tradizione plurisecolare. Sicuramente la parola torcolato però è citata in un diploma di una fiera di Genova nel 1898, dove vince una medaglia d'oro. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco e parliamo anche della prima del Torcolato. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself. Drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Needle in the bread, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Torniamo in linea con la nostra rubrica Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del Torcolato, questo vino passito molto buono che si produce nella zona di Breganze. Lo stiamo facendo con Fausto Maculan, presidente della Strada del Torcolato e dei Vini DOC di Breganze. Dottor Maculan, sappiamo che domenica 17 c'è ormai una tradizione che dura da più di 20 anni, la prima del Torcolato. Però, che significa la... La prima spremitura del Torcolato. E si fa in piazza a Breganze. Sì, è una cosa che ci siamo inventati, dicendo, costringendo quasi tutti i produttori di vino torcolato di portare un po' di uva e torchiare in piazza con un torchio del 1911 e produrre un'ottantina di bottiglie che vengono poi consegnate a giornalisti e autorità presenti, cioè addirittura i giornalisti firmano la bottiglia vuota che verrà riempita fra 2 anni. Una bella manifestazione che poi corredata di momenti di scherzi, di giochi, di danze popolari, di mercatino dei prodotti locali. Insomma, cerchiamo di fare una manifestazione folcloristica dove la gente viene in questa domenica, sperando sempre nel bel tempo, e divertirsi in piazza assaggiando i prodotti locali. Quindi, per chi avesse voglia di fare un giro da quelle parti, alla mattina quindi trova questa spremitura o al pomeriggio? No, al mattino c'è quello che è stato definito fruttaio tour, cioè ci sono una decina di cantine aperte, ci riceverà un dépliant con una mappetta dove sono segnate le cantine, e si può vedere la cantina, si può vedere l'uva in appassimento ed assaggiare anche un vino. Mentre al pomeriggio, pomeriggio tutti in piazza, c'è la sfilata della fraglia, c'è la proclamazione dell'ambasciatore del Torcolato, insomma c'è moltissima attività in cima a un palco che è bello vedere. Ecco, lei è presidente della Strada del Torcolato e dei Vini DOC di Breganze. Sappiamo che queste istituzioni, queste associazioni, le strade dei vini soprattutto, in realtà hanno il senso di trainare un po' il territorio. Sì. Cosa c'è nella zona di Breganze, oltre al vino, e che cosa state che cosa proponete anche durante l'anno? Bene, intanto le devo dire che la seconda cosa per cui Breganze è famosa sono i toresani, che sono dei piccioni di torre, e che vengono infilati in uno spiedo e diventano una leccornia, una cosa buonissima, e sono fatte diciamo da una quindicina di ristoranti che sono iscritti anche alla strada, perché la strada praticamente è una via est-ovest da Bassano a Thiene, è una via nord-sud diciamo che parte da Sandrigo e sale fino a quasi Lusiana, e lì e qui tutte le aziende che fanno dei prodotti tradizionali, che possono andare dalle ceramiche a Nove alla grappa di Schiavon, Marostica o Bassano, sono tutti iscritti alla nostra associazione, oltre a caseifici che producono il formaggio asiago, perché siamo in piena zona di formaggio, certo, asiago. Abbiamo le ciliegie di Marostica, che pur non essendo in stagione ce ne sono di conservate o sotto grappa o in marmellata, e che sono lo stesso delle cose buonissime del nostro territorio. C'è qualche altro avvenimento durante l'anno che sì, caratterizza un po' questa zona? Sì, c'è un grossissimo avvenimento che coinvolge circa 5.000 persone, e che è la Vespaiolona, cioè è la notte del venerdì vicino al solstizio d'estate, dove almeno 20 cantine sono aperte e si può viaggiare in autobus fra le varie cantine, nel senso che così si può anche bere, non dico un bicchiere in più, ma insomma non preoccuparsi poi della polizia se ci si ferma, perché c'è questo servizio, abbiamo 18-20 autobus che girano fra le cantine, e c'è questa bellissima serata, ogni cantina ha uno spettacolo, ogni cantina ha anche un prodotto da mangiare, perché evitiamo di asciugare un po' anche questi bicchieri di vespaiolo che vengono versati dalle cantine. Benissimo, abbiamo scoperto qualcosa in più della zona di Breganze e di questo famoso vino, appunto il Torcolato. Appuntamento per chi volesse domenica prossima, il 17 di gennaio, alla prima del Torcolato, oppure appunto a questa Vespaiolona. Grazie. Grazie a lei. E concludiamo la trasmissione con un paio di brevi notizie. La prima riguarda sempre un po' il mondo del vino. È in gravi difficoltà finanziarie la Biblioteca Internazionale La Vigna di Vicenza, polo di riferimento per gli studiosi del settore vitivinicolo e agricolo. Una biblioteca donata nel 1981 alla città iberica dal mecenate Demetrio Zaccaria. La riduzione drastica del numero dei soci e delle rendite finanziarie del fondo di dotazione lasciato appunto dal fondatore mette a rischio l'importante attività culturale e anche la sopravvivenza stessa di questa istituzione. Solo i privati, seguendo l'esempio dell'illuminato e generoso fondatore, ha dichiarato il presidente Mario Bagnara, possono salvare le attività culturali della biblioteca e la valorizzazione di un eccezionale patrimonio librario di oltre 51.000 volumi, considerato il più importante a livello mondiale relativamente al settore agronomico ed enogastronomico. Mercoledì 13 gennaio alle ore 20:30 nella sede di Contrà Porta Santa Croce 3 si terrà un incontro per fare il punto della situazione. Ha fatto la sua comparsa sui banchi dei fornai veneti un nuovo tipo di pane riconoscibile per l'aspetto nerissimo e il pane al carbone vegetale, ovvero con l'aggiunta di uno tra gli integratori più usati per le sue capacità curative, noto come rimedio naturale per alleviare i disturbi della digestione. I panificatori di Confartigianato Veneto hanno svolto degli approfondimenti tecnico-giuridici per capire come si potesse produrre questo pane. Dalla ricerca è emerso che il carbone vegetale, essendo sostanza organica naturale che non rilascia sostanze di natura tossicologica, è ritenuto sicuro dal Ministero della Salute, che lo ammette come integratore alimentare. La normativa europea invece ritiene il carbone vegetale un colorante e ne disciplina quindi l'utilizzo, ammettendolo solo in alcuni generi alimentari. Per cui per i prodotti da forno tradizionali la normativa prevede che il carbone vegetale non possa essere utilizzato, mentre è ammesso per i prodotti da forno definiti fini come grissini, cracker e taralli. È difficile capire se l'acquisto sia dettato dal fatto che il carbone vegetale faccia bene o perché è la moda del momento, ha commentato il presidente dei panificatori di Confartigianato Vicentini, Ruggero Garlani, che conclude che non si tratta comunque di un prodotto nocivo, essendo appunto permesso dal Ministero della Salute. Con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima settimana. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.